Ma, rifletteva però, se la notizia di questa gran conversione si sparge qua dentro, intanto che ci siamo ancora, chissà come l'intenderebbero costoro. Chissà cosa nasce. Che s'andassero a immaginare che sia venuto io a fare il missionario. Povero me, mi martirizzano. Il cipiglio dell'innominato non gli dava fastidio. Per tenere a segno quelle facce lì, pensava, non ci vuol meno di questa qui, lo capisco anch'io. Ma perché deve toccare a me trovarmi tra tutti costoro? Basta, s'arrivò in fondo all'ascesa e s'uscì finalmente anche dalla valle. La fronte dell'innominato s'andò spianando. Anche Don Abbondio prese una faccia più naturale, sprigionò alquanto la testa di tra le spalle, sgranchì le braccia e le gambe, si mise a stare un po' più sulla vita, che faceva un tutt'altro vedere, mandò più larghi respiri e, con animo più riposato, si mise a considerare altri lontani pericoli.